GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Otto funzionari di enti pubblici della regione indagati dalla finanza per appalti irregolari nell'acquisto di autobus. Due sono già stati condannati, altri due hanno patteggiato. Un cinese di 55 anni arrestato e una coetanea denunciata a Trieste per un giro di prostituzione all'interno di due centri massaggi. Gestivano connazionali con ritmi al limite della schiavitù. Prima conferenza stampa questa mattina a Trieste per Marco Consalvo, nel ruolo non più di presidente dell'aeroporto regionale ma dei porti di Trieste, Monfalcone. Oltre 2.600 euro in più all'anno entro il 2028. La CISL fa il punto sugli effetti del rinnovo del contratto dei metalmeccanici sulle 48.000 tute blu del Friuli Venezia Giulia. Presenze turistiche un aumento del 6% in regione nell'ultima stagione estiva, sul podio per la montagna Piancavallo, grado per il mare. I turisti stranieri continuano a essere soprattutto austriaci. Sono 93 gli autovelox in funzione in Friuli Venezia Giulia, ma come il resto degli apparecchi dislocati in Italia non sono omologati e la multa è contestabile. Ne abbiamo parlato a Buongiorno Regione. In scena da ieri sera al Teatro Rossetti di Trieste, Cats, uno dei musical più amati della storia, è approdato nella versione originale londinese del 1981 che sta girando il mondo. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. Diversi enti locali del Friuli Venezia Giulia avrebbero commesso irregolarità nelle procedure di appalto per l'acquisto di scuolabus, risultati tutti assegnati alla stessa società veneta. 18 funzionari pubblici sono stati indagati, due già condannati, mentre altri due hanno chiesto il patteggiamento. Bandi per scuolabus copia e incolla, quasi fotocopia dei preventivi forniti da un'azienda risultata poi illecitamente vincitrice di tutte le gare. Al termine di un'indagine della Guardia di Finanza di Udine, durata oltre 3 anni, indagati il responsabile vendite di una ditta di Pianiga nel veneziano e i tecnici comunali di decine di piccoli e medi municipi tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Secondo l'inchiesta, diretta dalle procure di Udine e Pordenone denominata Filobus, il capitolato d'appalto veniva predisposto ricalcando le caratteristiche tecniche del bus della società veneta, grazie ai contatti intercorsi prima tra l'agente e i tecnici comunali, contatti poi negati nelle carte di gara. Tenente colonnello Andrea Gobbi, comandante del nucleo economico finanziario di Udine. Così facendo, ovviamente si andava a ledere quella che è la correttezza del mercato e limitando la scelta della pubblica amministrazione nella procedura corretta di individuazione della società a cui affidare l'appalto. Gli inquirenti contestano ribassi irrisori durante le gare, alle quali la ditta veneta era spesso unica concorrente. Talvolta venivano invitate società che difficilmente avrebbero potuto partecipare. Alcuni casi sono già andati a condanna in primo grado. In una sentenza ad un anno di reclusione si legge di tempistiche record nella valutazione degli atti di gara, concluse in appena 13 minuti. Contestate gare d'appalto per 1.600.000 euro in totale, dal 2018 al 2020. Ciascun bus costava tra i 100 e i 150.000 euro. Coinvolti 7 comuni in provincia di Udine, 7 in quella di Pordenone, 6 nel Goreziano e 3 nel Bellunese, il più grande di 9.000 abitanti. Non ci sono sindaci indagati, né sono stati individuati passaggi di denaro. Non c'è stata pertanto corruzione. Il reato ipotizzato è turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, con pena fino a 5 anni di reclusione. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Olena Stasiuk, la donna di 55 anni che il 12 novembre scorso a Muggia ha ucciso il figlio Giovanni di 9 anni, sarà sottoposta a perizia psichiatrica per verificare se al momento dell'omicidio fosse in grado di intendere e di volere. Il giudice per l'inchiesta preliminare del Tribunale di Trieste, Francesco Antoni, ha quindi accolto in incidente probatorio la richiesta dell'avvocata Chiara Valente che difende la donna, nonostante le controdeduzioni del pubblico ministero che ne chiedeva il rigetto. Al momento non è ancora stata fissata la data dell'incidente probatorio, che sarà successiva all'udienza di conferimento in carico al perito, lo psichiatra triestino Lucio Di Gennaro. All'accertamento potranno partecipare i consulenti di parte. L'avvocata Valente si affiderà alla psichiatra forense Anna Palleschi. La perizia stabilirà anche se la donna potrà partecipare coscientemente al processo in cui sarà imputata per omicidio volontario pluriaggravato. Al momento lo stato di salute di Olena Stasio, che è incompatibile con la custodia cautelare in carcere, e la donna si troverebbe ancora in ospedale a Trieste in attesa del trasferimento nella sezione psichiatrica di un penitenziario. Ancora cronaca, un uomo di nazionalità cinese di 55 anni è stato arrestato, una sua coetanea e connazionale è stata denunciata dai carabinieri di Trieste al termine di un'indagine sullo sfruttamento della prostituzione. La prima fase dell'inchiesta si era concentrata su due centri massaggi in via Flavia e in via San Francesco. L'operazione aveva portato al sequestro preventivo dei locali usati per far prostituire le donne cinesi in una gestione totalizzante, al limite dello schiavismo da parte degli indagati, di parecchie donne che si alternavano più o meno ogni mese nell'attività. A queste giovani, attratte inizialmente dalla prospettiva di avere una casa, cibo, comodità e una certa sicurezza, era richiesto di vendere il proprio corpo a una serie infinita di clienti senza mai uscire nemmeno per i passi, con compensi irrisori. Prima conferenza questa mattina di Marco Consalvo, appena nominato ufficialmente dopo un lungo periodo di commissariamento presidente dei porti di Trieste e Monfalcone. Si dice abituato ad andare avanti, dritto per la sua strada, memore dell'esperienza fatta al Trieste Airport, che quando lui arrivò era un piccolo scalo periferico, ora un aeroporto che chiude l'anno con 1.600.000 passeggeri. Marco Consalvo passa dai cieli al mare, da nuovo presidente dell'autorità di sistema portuale di Trieste Monfalcone, si presenta alla stampa metà mattina dopo aver iniziato la giornata prestissimo, visitando di persona tutti i cantieri del PNRR, andandoci fisicamente, dal molo settimo al molo ottavo, dal terminal degli ungheresi all'elettrificazione delle banchine. Sono entusiasta di cominciare, ha detto. Tra i punti di forza di Trieste ha citato la sua internazionalità, una cerniera fondamentale tra Mediterraneo ed Est Europa, con la presenza dei collegamenti ferroviari tra 10 paesi. Tra i punti deboli, questo ritardo della nomina, arrivata a oltre 500 giorni dalla fine del mandato del predecessore Zeno D'Agostino. Non dobbiamo perdere tempo, anzi il tempo che in questo anno e mezzo, un po' di situazioni particolari che il porto ha vissuto, dobbiamo mettercele alle spalle velocemente e pensare al prossimo futuro. Raccoglie con un ritardo di un anno e mezzo un'eredità importante, quella di Zeno D'Agostino. Sì, sicuramente il percorso fatto da Zeno D'Agostino nei suoi 10 anni è di un cambiamento netto di direzione di questo porto. Sono convinto che ci sono tantissimi elementi positivi, quelle criticità che, ritorno a dire, per me è importante, fondamentale la parte degli investimenti, perché quello è il futuro prossimo e noi dobbiamo avere un'infrastruttura complessiva, e non parlo solo del porto ma tutto il sistema complessivo moderno e che sia competitivo, perché la competizione a livello internazionale è altissima e non possiamo permetterci di avere delle infrastrutture non adeguate. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. 12.38, passiamo al meteo. Il cielo da nuvoloso coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 11 gradi, a Gorizia 12, Pordenone 9 gradi e mezzo, Udine 11 gradi e 5 decimi, in area montana Tolmezzo e Forni di Sopra 5 gradi, Tarvisio 1 grado e mezzo, Piancavallo 4, Sappada 0 gradi, in quota sul Monte Zoncolan 5 decimi di grado sotto lo zero, sul Monte Lussari 1 grado negativo, sulla costa Grado 11 gradi, a Lignano 10 gradi e mezzo. Le previsioni: oggi avremo cielo in prevalenza nuvoloso, coperto sulle Giulie, sulla costa soffierà bora moderata, dal tardo pomeriggio possibili precipitazioni sparse, in genere deboli, con quota neve sui 1000-1200 metri circa. Oggi a Udine la CISL ha fatto il punto sul rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici. 48.000 tute blu in Friuli Venezia Giulia, che avranno un incremento medio di 205 euro mensili, con un aumento di retribuzione pro capite a regime nel 2028 di 2.665 euro annui. È il frutto del recente rinnovo contrattuale nazionale ottenuto grazie alla mediazione sindacale, ma anche alle 40 ore di sciopero dei lavoratori prima della firma. Ferdinando Uliano, segretario generale della FIM CISL. Da più dell'inflazione, sono pochi i contratti che danno una copertura economica maggiore dell'inflazione, quindi un risultato significativo anche perché ce l'abbiamo sudato con 40 ore di sciopero, perché la controparte non voleva darci una risposta contrattuale all'altezza dei bisogni dei metalmeccanici. Le retribuzioni metalmeccaniche quindi aumenteranno e così crescerà anche il reddito del comparto regionale, che al 2028 sarà di oltre 320 milioni di euro, con un impatto positivo sui consumi. Nel corso del Consiglio Generale della CISL l'attenzione è focalizzata sulla quarantina di aziende che oggi stanno utilizzando la cassa integrazione per un complessivo di circa 4.500 lavoratori. C'è la crescita dello 0,9% tra il 2022 e il 2025, ma rimane una certa instabilità e sicuramente la difficoltà ad essere competitivi a livello globale. Occhi puntati sulla Inway a Trieste. Pasquale Stasio è il segretario regionale FIM CISL. Oggi noi abbiamo fissato un incontro per il 17 di dicembre al Ministero, sarà quella l'occasione per verificare nuovamente il piano industriale e spingere sull'azienda affinché si riparta al meglio. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora il punto su alcune crisi nel comparto industriale del Pordenonese. Ci sono elementi di debolezza nell'industria pordenonese. I sindacati avvertono di un utilizzo rilevante della cassa integrazione in diverse aziende del territorio. Oltre alla Savio, che produce macchine per il tessile, tra i nomi più noti che stanno ricorrendo alla cassa c'è la ZML di Maniago, 400 dipendenti in tutto. Lo stabilimento di proprietà del gruppo Cividale affronta un periodo di rallentamento in tutte le tre produzioni, ghisa, alluminio e rame, ma il calo più marcato è per la ghisa, che scende di quasi un quinto in termini di tonnellate prodotte. Pesano la concorrenza cinese e la crisi del settore dell'auto, riferiscono i sindacati a qualche giorno da un incontro in cui l'azienda ha annunciato proprio per la ghisa quasi un mese di interruzione del lavoro tra cassa integrazione e ferie. Michela Zanutta della FIOM CGL. Pesano i costi energetici del 30% di più in Italia rispetto ad altri paesi europei, quindi oltre alla concorrenza asiatica c'è anche una concorrenza all'interno dell'Europa determinata proprio da una differenza dei costi energetici che ricade poi su tutte quelle che sono le aziende energivore. La situazione sul territorio vede difficoltà anche per imprese in altri settori. Da fine settembre 2023 c'è stata una crescita dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali. Vediamo che in questo ultimo periodo poi si stanno aggiungendo anche aziende che fino ad oggi avevano retto sul mercato. Così i metalmeccanici di FIOM, FIM e WILM chiedono un intervento alla politica a partire dalla regione per aiutare le imprese a rimanere competitive. Pordenone, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. È stato presentato oggi il bilancio della stagione estiva 2025 in regione, in cui si registrano presenze in crescita. Piancavallo per la montagna e Grado per il mare, le località che vantano i migliori risultati. Continua a crescere il turismo in Friuli Venezia Giulia. Secondo i dati illustrati dall'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emilio Bini, le presenze turistiche nella nostra regione sono aumentate del 6,2% rispetto al 2024, raggiungendo già ad ottobre i 10 milioni di visitatori. Entrando nello specifico, da gennaio a ottobre di quest'anno, il miglior risultato è stato quello di Piancavallo, con il 19% in più di turisti, seguito dalle città della nostra regione con un più 10%, sempre raffrontato alla scorsa stagione. Sul fronte del mare, i migliori numeri li ha fatti Grado, che cresce del 6,2%, Lignano del 2,7%, e per quanto concerne le provenienze, è ancora dall'Austria che arrivano la maggior parte dei turisti, con il 18% tra gli ospiti. Dalla Germania proviene il 13% e tra le regioni italiane e la Lombardia a fare da capofila con l'8%. Restano le spiagge del Friuli Venezia Giulia le mete più ambite del turismo nel 2025, con il 63% degli ospiti. L'arte e la cultura delle città conquistano una parte importante del mercato con il 27%, dove Gorizia registra un più 25% di presenze, legate soprattutto, per essere stata la capitale europea della cultura, assieme alla vicina Nova Gorizia. Trieste, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sempre di corsa, spesso non rispettiamo i limiti di velocità, gli autovelox fanno da deterrente, non tutti però sono autorizzati dal Ministero e ora c'è un elenco ufficiale. Resta però un problema, nessun autovelox è omologato e per la legge questo vuol dire che le multe possono essere contestate. Ne abbiamo parlato questa mattina a Buongiorno Regione. Sulle strade del Friuli Venezia Giulia si continua a morire, circa 60 vittime l'anno, una media di 5 al mese. Per frenare questa strage lampeggiano le lucette degli autovelox. In molti casi non c'è la telecamera e fanno solo da deterrente. Il Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato il censimento degli autovelox autorizzati. Verrebbe da pensare che se uno strumento è censito, le sanzioni che produce sono automaticamente valide, ma non è così. Walter Milocchi, comandante della Polizia locale di Trieste. In questo momento tutti i cittadini sanno che nella nostra regione sono 93 gli apparati di controllo velocità, a livello italiano sono 3.300. Tutte le apparecchiature italiane sono soltanto approvate perché manca il regolamento che preveda la procedura per l'omologazione delle apparecchiature stesse. Sono le stesse che si usano in tutta Europa, però manca questo aspetto dell'omologazione. La Corte di Cassazione ad aprile 2024 ha ribadito che le apparecchiature devono essere omologate. Di conseguenza il semplice fatto di comparire nel censimento non basta a garantire la piena regolarità dello strumento. Se un autovelox non è omologato, la multa può essere contestata. Restano poi i controlli fatti dagli agenti in carne ed ossa. 1.800 le sanzioni emesse quest'anno dalla Polizia Locale di Trieste per velocità non adeguata. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Giornata d'esordio per l'Indo-Mediterranean Business Forum dedicato alla realizzazione di una piattaforma per le imprese attive nella regione Indo-Mediterranea, considerata presupposto per la crescita economica del corridoio economico India-Medio Oriente-Europa, IMEC. Coinvolte in primo luogo le imprese di logistica e trasporti, in aggiunta alle industrie che favoriranno gli scambi commerciali tra Oceano Indiano e Mar Mediterraneo. Appuntamento a Trieste al Savoy Excelsior Hotel alle 17.30. A Francesco Parisi, presidente della società organizzatrice Trieste Summit Association, abbiamo chiesto quali sono le opportunità per le imprese. Le opportunità per le imprese sono in primo luogo quelle di sviluppare rapporti commerciali con l'area dell'Oceano Indiano, che include India, Emirati, Arabia Saudita in primis, che sono nazioni che hanno un livello di crescita dei propri prodotti interni lordo più elevato nel mondo. Quindi gli imprenditori cercano di sviluppare attività là dove esiste crescita. Si aggiunge a questo il fatto che noi soffriamo della problematica del Mar Rosso da 2 anni a questa parte. 4 anni fa il canale di Suez è rimasto bloccato per una settimana per una nave che si è messa di traverso e quindi noi andiamo in cerca di ridondanza e un land bridge, cioè un'attività ferroviaria tra le coste del mare Arabico e le coste meridionali del Mediterraneo, rappresenta un'alternativa che può rendere meno fragile e meno vulnerabile il canale di Suez. Quali punti critici dell'iniziativa? I punti critici sono evidentemente la situazione geopolitica del territorio, che ha rappresentato un ritardo nell'avviamento del progetto, ma noi pensiamo che nel medio-lungo termine questa sia una grossa opportunità anche per una normalizzazione delle situazioni oggi un po' critiche nell'area. Si intitola Pensare al presente, giovani a confronto con l'opera di Franco Basaglia, l'incontro pubblico aperto alla cittadinanza che si terrà questo pomeriggio alle 16 nel teatro intitolato allo psichiatra all'interno del parco dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Una floricoltrice friulana è stata tra le protagoniste dell'ottava edizione del premio femminile dell'innovazione della Coppa Cogeca, organo di rappresentanza di agricoltori e cooperative agricole dell'Unione Europea, premiazione che si è tenuta a Bruxelles. Il premio, che vuole valorizzare il ruolo innovativo delle donne in agricoltura, è inteso a mettere in luce i progetti più avanzati nella gestione dell'acqua. Alessandra Pighin, florovivaista Coldiretti di Rivignano Teora, ha ricevuto il premio speciale per un innovativo sistema di recupero e gestione dell'acqua piovana che sta trasformando in chiave verde la produzione floricola nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Ieri sera a Trieste la prima di Cats, uno dei musical più amati del suo genere, approdato al Rossetti nella versione originale londinese del 1981, che sta girando il mondo. I gatti che danzano alla luce della luna sulle parole di uno tra i più grandi dei poeti in lingua inglese che diventano notte grazie ad un genio del musical. È la chorus line di Cats di Andrew Lloyd Webber, ispirato ai versi scritti da Thomas Stearns Eliot. In scena un gruppo di gatti che ogni anno si ritrovano per raccontarsi al loro saggio capo, che sceglierà solo uno tra loro, permettendogli di salire nel paradiso dei gatti. Uno spettacolo che arriva a Trieste nella versione originale, quella che debuttò a Londra nel 1981 per la regia di Trevor Nunn. Tra tutte le voci burlesche, ad un certo punto ne arriva una decisamente più meditativa, quella di Grisabella, una vecchia gatta emarginata che riflette sulla propria solitudine. E questa Memory è diventata la canzone simbolo di uno spettacolo che, oltre a divertire, commuove e affascina. Il pubblico ieri sera alla Rossetti non si è tirato indietro, facendosi coinvolgere dal ritmo fino agli infiniti applausi finali. E se anche voi volete conoscere o ritrovare i gatti di Eliot e Webber, avete tempo fino all'ultima delle repliche, il 7 dicembre. Andrea Bardani, Gatti GR Friuli Venezia Giulia. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Maria Spezia, in regia per la parte tecnica Mauro Ciccarelli e Carlo Morello. Ha collaborato in redazione Samantha Gonna. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.